e nella cucina convogliavano tutte le acque, le poche acque superficiali che c'erano nella valle. In questa valle c'era il torrente Rosa, quindi questo fossato che vedete, questo scavo che voi vedete, era comunque un torrente perché non era un fiume, era un torrente nelle acque nazionali, quindi in inverno, in primavera c'era acqua. Diciamo che prima era come un fiume, perché aveva una bella portata e andava verso il fucino, però non era un fiume vero e proprio. Nel momento in cui è stato prosciugato il lago, in realtà il livello della falda si è abbassato, e quindi praticamente tutte le acque superficiali che stavano intorno, abbassandosi il livello della falda, quindi questo fossato che adesso si vedete è semplicemente, si riempie soltanto forse una volta ogni 3-4 anni, non so se c'è gente in avanti, però considerate che il progetto che prevede l'invaso, mentre l'ultimo progetto che prevede l'invaso intero, cita testualmente, si utilizzeranno le acque provenienti dalle piene annuali del fossato Rosa. No, io l'avrò visto, io ho quasi 50 anni e l'avrò visto 3 volte. Qualche volta appunto 2-3 anni ci vede un pochino d'acqua che scorre. Comunque il fucino dove si è abbassata la falda, ma se non funzionasse il consorzio di bonifica ritornerebbe l'acqua. Perché in realtà noi il fucino, i canali che voi vedete, esatto, ci sono dei canali in isola piana, però vengono gestiti, cioè vengono, come si dice, vengono irrigimentati, vengono bloccati da una diga. Comunque quando la diga è chiusa, quindi si riempie nei canali, ma se non c'è questa diga, però quello non è sufficiente per utilizzare. Non è sufficiente, io penso che si dovrebbe più lavorare sul meccanismo di gestione, cioè c'è tanto spreco di acqua adesso, praticamente con la situazione. Cioè se voi avete presente, per esempio, che la padana vengono irrigati i campi con questi getti d'acqua, è quella che fa il consumo forestale, no? E quindi, oppure per esempio quando piove, anche evapora nelle ore calde, ci sono sistemi di irrigazione accesa, no? Nel senso che forse bisognerebbe prima lavorare sulla gestione, sul modo in cui vengono gestite appunto le acque, poche acque che ci sono, e poi magari però fare un invaso, sprecare ancora più acqua, perché tanto abbiamo altra acqua, insomma vabbè, penso che siano problemi un po'. Anche qui comunque è stato complicato riuscire il lago, allora praticamente le acque che vi dicevo venite appunto a primavera ci sono, cioè nel senso no, penso che si parli semplicemente di entrare, cioè di permeabilizzare e aspettare che comunque le acque vanno. Sì, perché non si potranno andare. L'unica cosa è che in estate ti sarebbe asciutto, cioè sarebbe ovviamente una distesa di cemento famosa, no, ma tanto non lo farà. Sì, anche perché non è che sia così risolutivo. La gente che bisogna. No, però per dire che c'è anche qualche comitato di protesta, adesso stanno, cioè si sta facendo un po' confusione, quindi dicono dai facciamo casino per non far fare l'invaso, e io ho detto guarda io non dico niente, una zona che non sarebbe neanche risolta. Secondo me sono cose più che si usano da parte dei politici per far vedere per i voti. La cosa appunto brutta è quello che dicevo, nel senso che comunque non si viene mai in conto del valore ecologico del bosco, no? Cioè nel senso tu puoi fare,